Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali per questo nuovo appuntamento con il meglio di essere e avere. Torniamo a chiedervi che cosa hanno in comune Leonardo DiCaprio, Biella e una felpa con la garanzia di 30 anni. Uno stilista inglese emergente che ci ha scritto per parlarci della sua idea di prodotto contro l'obsolescenza tessile e la fast fashion. Lo abbiamo contattato e ci siamo fatti raccontare la sua storia. Questa sera ve la riproponiamo. E poi c'è un neologismo che sta diventando di moda, worksumer, dall'unione di work e consumer. Indica persone le cui esigenze di consumo sono strettamente legate al modo di lavorare, all'insegna della continuità tra mondo digitale e fisico, tra dimensione professionale e personale. Sono il frutto dei nuovi stili di vita collaborativi. Dal turbante anni 20 al tagliacarte, i consumi guardano alle case e agli armadi della nonna. Nel focus sui trend parliamo di consumi nostalgici. Riflessione finale dedicata invece ai primi 15 anni di Wikipedia e al modello di conoscenza condivisa che ha fatto scuola anche nella comunicazione. This enormous rapacious industry that is generating so much profit, why is it that it is unable to support millions of its workers properly? The actual business model is completely unsustainable. Unless you change that model, you can't change anything. Quello che avete sentito, che sentite in sottofondo, è il trailer di The True Cost, il docufilm sul mondo della moda e sull'impatto sociale e ambientale dell'industria della moda. Un lavoro di cui abbiamo parlato qualche mese fa in occasione dell'uscita, che denuncia in particolare il sistema della fast fashion e i veri costi umani e ambientali di un prezzo di mercato sempre più basso. Lo usiamo per introdurre la storia di Tom Cridland, giovane designer inglese che in poco più di un anno, grazie a una campagna su Kickstarter e a un prodotto semplicissimo, una felpa girocollo, è passato da un prestito di 9.000 sterline a un fatturato di 350.000. The 30-Year Sweatshirt, la felpa che dura 30 anni, il nome della campagna che ha promosso il suo caposimbolo, oggi i pantaloni firmati Tom Cridland sono indossati da molte celebrities, da Leonardo DiCaprio a Daniel Craig, Hugh Grant, Ben Stiller, solo per citarne alcuni. La stampa britannica ne ha parlato molto, recentemente lo ha fatto anche il New York Times. Lo stilista ha creato anche un'agenzia di comunicazione per promuovere brand indipendenti come il suo, impegnati per una moda sostenibile. Una bellissima storia che ci siamo fatti raccontare dallo stesso Tom e che inizia da un incontro con Leonardo DiCaprio. L'intervista è di Adriano Palazzolo. Ho fondato il marchio Tom Cridland per creare pantaloni da uomo. Volevo, da un lato, rendere lo shopping più facile per gli uomini e, dall'altro, rendere un capo come i pantaloni più interessante, farli in diversi colori e con diversi materiali. Ho avuto l'occasione di creare dei pantaloni per Leonardo DiCaprio, cosa che per me è stata un grande onore. L'ho conosciuto meglio. Ovviamente sapevo che era un grande attore, ma mi sono informato di più sul suo impegno per l'ambiente, il che mi ha ispirato un progetto di moda sostenibile, quello che sarebbe poi diventato il mio prodotto successivo, la 30-Year Sweatshirt, la felpa che dura 30 anni, nato contro la fast fashion. E poi cos'è successo? Qual è stato il tuo seguito in rete? La risposta è stata travolgente, ci ha sorpreso moltissimo. Abbiamo creato pantaloni per Ben Stiller, Leonardo DiCaprio, che ho appena nominato, Rod Stewart e Daniel Craig. Abbiamo avuto un ottimo riscontro di stampa per quanto riguarda la campagna nel Regno Unito, negli Stati Uniti e persino in Australia e in tante altre parti del mondo. Non ci saremmo mai aspettati una risposta simile, anche dal pubblico e da tutte quelle persone che hanno comprato e comprano la nostra felpa. E stiamo lavorando duramente per creare prodotti davvero speciali. Anche la campagna di crowdfunding per lanciare la felpa su Kickstarter è stata una grande idea ed è stato un successo. Nel primo mese abbiamo incassato oltre 50.000 sterline e questo ci ha dato le forze per iniziare l'attività. Parlaci un po' di questo prodotto, com'è fatto? Sono per metà portoghese e quindi sono andato in Portogallo, dove ho scoperto una particolare lavorazione. Abbiamo trovato i tessuti in Italia, precisamente nel nord, a Biella, da un fornitore che ha un'azienda nata nel 1865. Usiamo cotone organico, tessuto e cucito in maniera meticolosa, non trattato, usando strumenti e competenze di altissima qualità. Lo facciamo in Portogallo, importando i tessuti dall'Italia. Il prodotto poi viene lavorato in maniera tale che non si restringa in lavatrice né che si formino quei fastidiosi pallini di tessuto e facciamo in modo che risulti comodo, funzionale e con un'ampia vestibilità. È un prodotto di primissima qualità che noi però riusciamo a vendere a un buon prezzo perché eliminiamo nella catena i margini della distribuzione. I fornitori in Portogallo, quelli che materialmente producono la felpa e di cui io sono socio, sono un'azienda a gestione familiare, attiva dal 1964. Fanno questo lavoro da oltre 60 anni. Quando mi sono lanciato in questa campagna contro la fast fashion, non sapevo come l'avrei chiamata. Ho chiesto al mio fornitore portoghese, qual è la felpa più vecchia che puoi mostrarmi? E lui me ne ha fatta vedere una in ottimo stato risalente agli anni 70. Così abbiamo deciso una garanzia di 30 anni sul prodotto. Abbiamo già dei clienti in Italia, senza avere un negozio in Italia. Stessa cosa per quel che riguarda l'Australia e l'Estremo Oriente. Lavoriamo molto anche con gli Stati Uniti. Siamo riusciti a fare tutto questo solo con il nostro negozio online, ed è una cosa meravigliosa. Il tuo brand è stato aiutato molto anche dalle celebrità. Come sei entrato in contatto con loro? È stato diverso con ognuno di loro. A volte è stato il loro entourage a contattarmi, ad esempio con Rod Stewart. Mi ha chiamato il suo manager e ci ha detto «Rod vorrebbe un paio dei tuoi pantaloni, se fosse possibile». Mentre in altri casi sono io ad avvicinare personalità per le quali vorrei creare qualcosa. Li contatto e dico semplicemente «Sono uno stilista inglese di 25 anni, faccio pantaloni, ne vorreste un paio?». Loro mi rispondono dicendomi «Oh sì, ci piacerebbe molto». Ad esempio, Leonardo DiCaprio mi ha detto «Mi piace lo stile navy e il colore beige, puoi farmeli così?». E spesso si offrono anche di pagare, ma ovviamente se è Daniel Craig a portare un paio dei tuoi pantaloni, di sicuro non lo fai pagare. Anzi, è un grande onore. La storia di Tom assomiglia a quella di molti altri start-upper che anche grazie al mondo digitale hanno realizzato la propria idea di impresa. Sono i creativi e i professionisti di nuova generazione, per lo più freelance, del mondo dell'innovazione, del design, della comunicazione. Molti di loro lavorano nei co-working e in alcuni casi ci vivono anche. È la novità che arriva da Londra e da New York, dove alcune realtà importanti alla propria offerta per gli spazi di lavoro hanno affiancato l'offerta di spazi abitativi, dal co-working al co-living, appunto. Stanze piccole, moltissimi servizi in comune, contratti molto flessibili e tariffe che coprono affitto, utenze, pulizie e attività comuni. Protagonisti di questi spazi, quelli che sono stati definiti i worksumer, persone le cui esigenze di consumo sono strettamente legate al modo di lavorare. Ne abbiamo parlato con Davide Dattoli, co-founder di Talent Garden, la principale rete di co-working in Italia che ha ormai superato i confini nazionali. Lo stesso modello del co-working che aveva innovato da due principali punti di vista. Da una parte il fatto che le persone non hanno più bisogno di un loro ufficio, ma possono condividerlo con gli altri, possono utilizzare una risorsa quando ne hanno bisogno, soltanto qualche ora, o comunque non dovevano più avere tutti quei casini del 6 più 6 di affitto, del doverlo arredare, del dover pensare alle utenze, ma possono averlo pagando un unico canone, tutto intero e tutto incluso. E dall'altro il fatto che ci sia sempre più bisogno di socialità, del parlare con gli altri, degli avere degli ambienti condivisi in cui conoscersi, in cui confrontarsi, in cui contaminarsi. Queste due cose insieme stanno passando dal lavoro di giorno anche all'ambiente notturno e quindi al co-living. allo stare insieme durante la notte. Sono degli esempi che stanno nascendo un pochino a livello internazionale e che sono diventati sempre più interessanti in mercati molto maturi, in cui affittare una casa costa moltissimo, in cui sono sempre più piccoli gli appartamenti. Allora sì, la camera diventa sempre più piccola, ma ci sono sempre più aree comuni, ci sono sempre più servizi inclusi e non devo più pensare ad avere e a pagare le tasse, gli alloggi, eccetera, eccetera, ma posso focalizzarmi sull'utilizzare semplicemente un letto e un posto dove stare la notte. Ci fermiamo per una piccola pausa, continuiamo a parlare di co-living tra pochissimo e poi di consumi nostalgici e dei 15 anni di Wikipedia. Restati con noi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, dal co-working al co-living. L'innovazione sta cambiando gli spazi di lavoro e di vita all'insegna di nuovi modi di consumare che al possesso preferiscono l'accesso. Ecco che cosa ci ha detto ancora il co-founder di Talent Garden, Davide Dattoli. Le persone oggi non fanno più il classico orario lavorativo dalle 9 alle 18, ma lavorano e devono lavorare quando sono più produttivi. E sappiamo che ognuno di noi è molto diverso e quindi c'è chi riesce a focalizzarsi meglio la mattina presto, c'è chi invece preferisce lavorare la sera tardi. In questo anche il luogo di lavoro si deve adattare e quindi spazi aperti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, in cui ognuno riesce a utilizzarli quando è più produttivo, quando riesce a lavorare meglio, diventano fondamentali. Housing on demand è stato definito, poi mi dici se ti piace la definizione. Il co-living può aprire un business importante così come è stato per il co-working? Assolutamente sì, di fatto stiamo parlando di ripensare come oggi avvengono il mondo degli affitti, il mondo della vendita delle case, perché vuol dire trasformare tutto da un affitto, da avere il bene per sé al condividere un bene che esiste e che io posso pagare soltanto quando ne ho bisogno, soltanto in modo limitato. La definizione ti piace, housing on demand? Sì, funziona, diciamo che si inserisce bene in un concetto di sharing economy. Ecco, perché è stato sottolineato da più parti, questi spazi sono proprio figli dei nuovi stili di vita collaborativi. Assolutamente sì, sempre di più le persone cercano relazioni. Siamo in un mondo sempre più digitale, ma che ci di fatto anche restringe al nostro computer, al nostro cellulare, ai social network. E quindi il tornare alla fisicità, il tornare a condividere con gli altri, l'avere persone intorno e avere dei luoghi strutturati che creano relazione, che creano contaminazione, diventa fondamentale in un mondo sempre più digitale. Il rischio di non staccare mai, di non riuscire a staccare mai esiste? Esiste assolutamente, ma dipende anche molto dal quanto faccio quella cosa con passione. All'ingresso di tutti gli spazi di Talent Garden c'è sempre il passion working space, perché è vero che le persone di fatto vanno a lavorare anche di più, ma vanno a lavorare su cose che gli piacciono e quindi trasformano le loro passioni in un lavoro e riescono a lavorare anche in modo più leggero, senza essere a un certo punto c'è il lavoro, a un certo punto posso uscire, ma si contaminano questi due mondi. Focus sui trend. Oggetti, materiali, ma anche abitudini dimenticate. Oggi una fetta di consumi guarda al passato. Il design, per esempio, strizza l'occhio alle estetiche da nonna. Chiamiamole così. Ne parliamo con Lucia Cromezca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buonasera a tutti. Allora, consumi nostalgici. Qual è il primo caso che hai selezionato per noi? È un progetto che tramanda delle pratiche da tempi immemorabili. La collezione di utensili di Alessandra Baldereschi sono utensili in legno e ci sono anche delle ricette. Lei recupera antiche tradizioni trasformandole in prodotti utili per le pulizie domestiche. Spiego un po' il progetto. Lei parte dal presupposto che nell'antichità le erbe aromatiche tipo salvia, timo, origano venivano impiegate in cucina, ma anche per detergere la casa. Essendo facili da coltivare e a portata di mano, lei ha pensato di fare due collezioni. Una collezione di utensili in legno, 8 strumenti, spazzole, pennelli, scope di varie dimensioni, gruce, profumatori per gli ambienti, tutti studiati per accogliere le erbe aromatiche fresche e sfruttando le loro proprietà per le pulizie domestiche. L'altra collezione è una collezione di ricette che uno può pensare e sviluppare. Pratiche antiche dunque da riscoprire. Poi dicevamo oggetti e materiali che si rifanno alle case delle nonne, quelle che sono un po' nella memoria di tutti noi. È questa l'ispirazione? Beh, nel mondo del design il recupero della memoria visionaria non è una novità, ma anche le linee retro. Però queste rielaborazioni creative ci permette anche di individuare dei nuovi linguaggi estetici, come per esempio la collezione Embrace che abbiamo visto recentemente, lanciata da Dedon e disegnata da Sebastian Herkner, che è un giovane designer tedesco. Si chiama Embrace rievocando l'idea dell'ospitalità, dell'abbraccio. È una collezione di design composta da una poltrona molto avvolgente, un lettino e una sedia a dondolo, cioè un puff per rilassarsi, tutti realizzato con la fibra Dedon ovviamente, ma anche il tech. C'è sempre nella collezione l'idea di avvolgere chi si siede, cioè è simile molto a un guscio, lo schienale delle poltrone, diventando un luogo invitante per rilassarsi. Moleskine ha pensato di reinterpretare i suoi iconici taccuini della copertina nera e rilanciare con il colore ma anche il tessuto, perciò la collezione limited edition che si chiama Blend vede 4 copertine in tessuto, colori naturali molto belli, sensazione tattile molto invitante. L'azienda addirittura dice che queste nuove copertine, questi nuovi taccuini diventano un compagno ideale per scrivere e disegnare le proprie idee nelle serate fredde. Abbiamo accennato prima anche a oggetti dimenticati. Beh, questo è un oggetto fantastico, bellissimo, elegante, che ci fa pensare che anche se siamo sommersi quotidianamente dalle mail, esistono ancora le lettere che vengono consegnate dal postino. Ecco, questo tagliacarte è di un'azienda danese che si chiama Hornfare Fabrik. È bellissimo, è un strumento classico che diventa un'occasione aprire una busta da lettere, un oggetto che ogni scrivania dovrebbe avere. È fatto di corno, è fatto a mano, artigianalmente, rispettando la tradizione dell'azienda che è stata fondata 200 anni fa. Beh, io penso subito a mio padre e a mio nonno, insomma, che avevano questo oggetto sulla scrivania e che nelle case invece di oggi è andato perdendosi, quindi anche questo un bel recupero, così come quello nel mondo della moda di un accessorio per me incredibile, elegantissimo, che si rifà agli anni 20 e agli anni 30, il turbante. Sì, sapori di un passato indimenticabile. Ecco, vorrei citare due stiliste che hanno preso le loro ispirazioni dai primi anni 20 e dalla nuova generazione di giovani donne irriverenti per la loro epoca. Si chiamavano le Flapper Girls e sono loro che hanno cominciato ad utilizzare le gonne corte, tenere i capelli a caschetti, ascoltare la musica jazz e soprattutto usare il turbante, che divenne il simbolo di questa generazione e anche quello che è stata considerata da alcuni la prima rivoluzione sociale protofemminista. E la prima designer si chiama Paloma Germain, lei parigina, giovanissima, 24enne. Lei propone una collezione di turbanti di seta di altissima qualità e altri materiali, alpaca di Perù per esempio. Ma che cosa fa? Lei inserisce un filo pieghevole all'interno di questo turbante, rendendo ogni pezzo veramente facile da piegare avanti, modellare il turbante sulla propria testa. Un statement, lei dice, stessa dice, statement di superpotenza per le donne, i sue turbanti. Mentre l'altra stilista, il padre belga, madre italiana, si chiama Genevieve Xe, e lei disegna ogni sua collezione dopo una meticolosissima ricerca. La sua collezione di accessori copricapi si chiama proprio Flapper, no? Come le Flapper Girls, e lei propone davvero degli accessori inusuali, non solo turbanti però, anche fasce, cerchietti, capelli, tutto prodotto a mano in Italia. Lei vive in Biella e utilizza le tecniche artigianali e tessuti che provengono proprio dalle valli bielesi: lana, cashmere, feltro, tessuti anche tecnici. Per chiudere, che cosa ci dice questo ritorno al passato? Che cosa racconta dei consumi di oggi? Si esprime molto forte nel mondo della casa, nella tavola, più che della nonna, i vari personaggi che hanno influenzato lo secolo scorso, che ci portano sicuramente a riscoprire dei usi, dei sapori di un passato e anche ricostruire un futuro con una identità forte. Grazie a Lucia Cromesca per essere stata con noi, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Ha appena compiuto 15 anni Wikipedia, l'enciclopedia collaborativa online che ha rivoluzionato la cultura del sapere. È questo lo spunto di riflessione che ci propone questa sera il nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa. Allora, il mondo prima e dopo Wikipedia, una rivoluzione. Una rivoluzione perché possiamo sintetizzarla in tre grandi passi. Il primo è la partecipazione dal basso, quindi il poter dare il proprio contributo a un mondo di conoscenza. Il secondo, l'idea della condivisione, perché non basta partecipare, ma velocemente puoi condividere. E il terzo è questa straordinaria facilità di raggiungere un'informazione, quindi con un click chiunque è abituato ad avere la risposta, ecco, come essere a rischia tutto ma avere la risposta senza essere Massimo Inardi, insomma. Un'idea, una realtà, una scommessa che è diventata un modello, tanto è vero che si parla di modello wiki ormai trasversale a moltissimi settori. Sì, è molto importante capire che in tutto questo poi bisogna ben chiarire l'elemento del controllo, perché questo è il punto a volte debole anche che Wikipedia in questi 15 anni ha saputo fronteggiare. Quindi io posso inserire contributi dal basso, ma c'è comunque qualcuno di molto credibile che poi lo controlla. Ecco, questo credo che valga un po' per tutta la rete, no? Questo modello inevitabile, io credo, per il futuro, che è reticolare, dove però gli snodi devono essere credibili, devono essere controllati. Come la fiducia ragionata, controllata nella sharing economy, così appunto la condivisione, però sotto determinate regole. Sì, noi diciamo, come tu sai, trust and sharing, cioè d'accordo, condividere, ma poi devi essere credibile e quindi costruire sull'idea di fiducia un percorso nuovo. Quindi sì, al sistema dei feedback, dei ratings, tutti insomma gli accorgimenti che rendono universale ma controllato, appunto, come dicevi, un modello come questo. Sì, e arriveremo a una misurazione anche sempre più, non dico standard, ma assolutamente decisiva. Ecco, quindi la reputation economy alla fine si baserà su questo: capacità di controllare, misurare, rilanciare i risultati della condivisione. Grandi spunti, occasioni di riflessione come sempre. Francesco, ti ringrazio, a domenica prossima. Grazie Maria Luisa, a te e a tutti i radioascoltatori. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, grazie anche in regia a Pietro Lacorte. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.